Salva Danaio di Deborah Rosciani. E benvenuti da Deborah Rosciani a Salva Danaio, a tutti buona giornata. Oggi la nostra trasmissione pensa a tutte quelle famiglie che tra i mille impegni, la fine della scuola, le giornate estive da organizzare, e non parliamo della dichiarazione dei redditi e dell'IMU, si stanno anche preparando per partire per le vacanze. Per i più fortunati e per chi se lo può permettere, magari anche una bella vacanza all'estero. Sono tante le cose da tenere a mente per mettere a punto un viaggio, e non solo ferie al lavoro, prenotazioni, itinerari, ma anche, e a volte sono davvero l'ultima cosa a cui pensiamo, i documenti necessari. C'è una novità che potrebbe essere sfuggita a qualcuno, ma che va assolutamente ricordata e sottolineata prima che genitori e figli si trovino all'aeroporto o al passaggio di una frontiera sguarniti. Dal 26 giugno, infatti, i minorenni potranno recarsi all'estero solo con un documento di identità personale, anche se viaggiano accompagnati da uno o entrambi i genitori. In precedenza, fino ai 16 anni, era possibile espatriare anche senza documento personale, ma se iscritti sul passaporto del padre o della madre. Chi ha in programma un viaggio per l'estate 2012 dunque dovrà provvedere al più presto a mettere in regola la documentazione dei suoi bambini e dei suoi ragazzi. Oggi a Salva Danaio allora approfondiamo questo nuovo regolamento e rispondiamo a tutti i dubbi e alle domande che vorrete sottoporci, ricordando anche tutti i passaggi necessari nelle procedure per ottenere e rinnovare il passaporto, che a volte rischiano di rivelarsi più complicate del previsto. Chiamateci all'800 24 00 24. Oggi ci confronteremo con il collega del Sole 24 Ore Matteo Prioschi, che ne ha scritto negli ultimi giorni su questo argomento. Matteo, ciao, bentornato. Buongiorno a tutti voi. E ringrazio anche un altro ritorno, quello della dottoressa Milena D'Arienzo, primo dirigente della Polizia di Stato. Dottoressa, buongiorno e benvenuta. Buona giornata a tutti. Allora, oltre al numero verde, naturalmente gli ascoltatori hanno anche altre modalità per scriverci e sottoporci i propri quesiti e le proprie considerazioni. Ci potete scrivere un sms al 349-238-6666 all'indirizzo salvadanaio@radio24.it, oppure potete andare anche sul profilo Facebook salvadanaio-radio24. Giornata in borsa anche oggi da monitorare. Proprio un ascoltatore su Facebook ci ha scritto: cara Deborah, è davvero meglio parlare dei documenti per le vacanze, perché anche oggi con le borse in rosso e lo spread sulla soglia dei 500 punti e quello che leggiamo sui giornali, Carlo, l'ascoltatore che ci scrive, si riferisce al Wall Street Journal, non prevedo cose positive. Effettivamente è un'altra giornata con il segno meno per tutte le piazze: meno 0,75% Parigi, meno 0,94% la piazza tedesca, il DAX, Londra perde lo 0,85%, Milano meno 0,68% sul FTSE MIB. Stanno pesando le nuove indicazioni delle agenzie di rating, che hanno declassato ancora la Spagna pesantemente, ma anche Cipro. Il taglio è stato effettuato nelle ultime ore da Moody's. E poi tutte le incertezze sulla risoluzione della crisi del debito, le dichiarazioni di questa mattina di Angela Merkel, insomma tante notizie che ancora una volta non convincono gli operatori di mercato, che stanno fuggendo dai paesi periferici dell'Eurozona, in particolar modo appunto dalla Spagna, ma anche dal Portogallo, oltre che dalla Grecia e anche dall'Italia, a giudicare da quanto la borsa sta perdendo negli ultimi giorni, ma anche a giudicare da quanto sta aumentando di nuovo il rendimento chiesto sui titoli di Stato. Ci stiamo riportando sui livelli di dicembre. Anche stamattina nell'asta di BTP a 3 anni il mercato ha chiesto il 5,30% dal 3,91% dell'analoga asta di maggio. Il tesoro ha collocato tutto quello che prevedeva, 3 miliardi, ma appunto gli operatori, gli investitori sono stati di nuovo particolarmente esigenti. Il quadro di Piazza Affari rapidamente con i migliori titoli. Tutti i difensivi, Enel e Snam, che guadagnano lo 0,8 e lo 0,7%. Vedo adesso un rimbalzino di Unicredit, che guadagna lo 0,3, A2A più 0,4, Terna più 0,3%, anche Intesa prova a risalire la china più 0,10%. I peggiori, STM meno 3%, che risente del maxi taglio di posti di lavoro annunciato da Nokia, 10.000 posti di lavoro tagliati entro il 2013, e naturalmente il titolo alla borsa di Helsinki precipita. Salvatore Ferragamo meno 3, Mediaset meno 3, Prismian meno 2,5%. Per la borsa è tutto. Andiamo al tema di oggi. Allora, partirete tra poco per le vacanze in famiglia? Sicuri che sia tutto a posto con i documenti? adesso te ne sei accorto da quella foto sopra il passaporto. Sì, sei cambiato, ma molto più dentro, un mare di ricordi in un momento. E ridono in regia per la scelta della canzone che questa mattina ha voluto accompagnare all'inizio della nostra trasmissione. Ogni tanto vogliamo un po' vivacizzare il clima, visto che ci deprimiamo a guardare la borsa, parliamo di altro. Oggi abbiamo scelto una canzone di un cantante che forse qualcuno non ricorda, Gatto Panceri, forse l'unico al mondo che abbia scritto una canzone che si intitola Il Passaporto, perché di questo noi parliamo di questa mattina, appunto, dei documenti che sono necessari per andare all'estero, in particolar modo perché questo è il titolo di viaggio assolutamente necessario, soprattutto per andare fuori Europa, perché in Europa, almeno Matteo Prioschi, se non mi ricordo male, è ancora sufficiente la carta d'identità. Sì, sufficiente la carta d'identità, ma comunque anche i minorenni dovranno appunto avere un loro documento, quindi anche se ci si sposta in Europa ognuno dovrà avere un documento che attesta l'identità, non sarà possibile espatriare portando ad esempio il passaporto del genitore con iscritto il figlio, perché anche in Europa valgono queste regole. Anzi, è proprio un effetto di un regolamento europeo questa novità, è un regolamento del 2009 che detta queste nuove disposizioni. Un regolamento del 2009 che diventa operativo dal 26 giugno di quest'anno, quindi ci sono stati 3 anni di tempo per potersi mettere in regola? Esatto, ci sono stati vari passaggi e la scadenza, diciamo, ultima per tutti è questa, diciamo, dal 26 giugno in poi non sono ammesse ulteriori deroghe, insomma. Allora, spieghiamo bene di che cosa si tratta, andiamo subito alla nostra consulente tecnica di questa mattina, la dottoressa Milena D'Arienzo, primo dirigente della Polizia di Stato. Allora, fino a questo momento, lo abbiamo già detto anche in apertura, per chi avesse minorenni al seguito, appunto, doveva indicarli nel titolo di viaggio su questo, no? Praticamente valeva il passaporto di mamma e papà. Da adesso in poi, dal 26 giugno in poi, invece, per chi circola in un aeroporto e naturalmente viene sottoposto a tutti i controlli del caso, anche il minorenne dovrà avere il suo documento per viaggiare. Dottoressa D'Arienzo. Sì, giustamente, come dicevamo, noi abbiamo introdotto prima il passaporto individuale per minori da novembre del 2009, lasciando però ancora valida la possibilità che chi fosse ancora sotto i 16 anni poteva viaggiare iscritto sul passaporto del genitore o di chi ne faceva le veci. Adesso però la normativa europea prevede che la data limite è il 26 giugno 2012, quindi da quella data il minore non può più viaggiare se non con un documento individuale, sia esso passaporto o carta d'identità valida per l'espatrio nei paesi dove è legalmente riconosciuta. Volevo far notare che il passaporto del genitore continua a rimanere perfettamente valido, certo, almeno che naturalmente non sia scaduto. Non si può mettere mica scaduto, esattamente, va a naturale scadenza, si può mettere mica una croce sopra così che cancella il nome del bambino o del figlio, naturalmente, certo. No, esatto, va e lui lo usa regolarmente, il minore invece deve avere il suo documento. Ecco, ma fino a questo momento, dottoressa D'Arienzo, anche per i minorenni allora era valida la regola per cui il loro nome era scritto sul documento del genitore, quindi in nessun caso era previsto che un minorenne avesse un documento di viaggio? No, dal 25 novembre, le dicevo, 2009 era possibile sia avere il passaporto individuale che la carta d'identità valida per l'espatrio, comunque rilasciata dai comuni, e c'è anche il famoso lasciapassare, cosiddetto lasciapassare, che è un certificato di nascita e cittadinanza insieme, che viene vidimato dal questore, però vale soltanto fino al compimento del 15° anno di età. Queste sono le possibilità che abbiamo per i minori per viaggiare all'estero. Questi però non saranno più validi adesso, dal 26 giugno in avanti. I lasciapassare continuano a rimanere validi perché sono intestati al minore e valgono però soltanto in quei determinati paesi che lo riconoscono sulla base di una convenzione internazionale che è comunemente detta Convenzione di Parigi, quindi gli stati che lo riconoscono, se non vogliamo fare il passaporto, possiamo fare questo lasciapassare. Benissimo, per il rilascio del passaporto per il minorenne che vuole andare all'estero con la sua famiglia, la procedura è identica a quella per il rilascio di un passaporto tradizionale, quello che farebbe mamma e papà, dottoressa D'Arienzo, oppure ci vogliono controlli un po' più rigidi? Ovviamente i controlli sono più rigidi, dobbiamo stare attenti con i ragazzi. Abbiamo bisogno di una domanda che è identica al modulo, quello che compiliamo per i maggiorenni. Però, essendo minorenni, ci occorre l'assenso di entrambi i genitori oppure di chi ne fa le veci, per esempio un tutore, se esiste. Nel caso in cui, ed è un caso credo frequentissimo, di genitori separati che magari uno è irrintracciabile. Esatto, o non voglia dare il proprio assenso. Si può richiedere il nulla osta del giudice tutelare. Poi occorre comunque il certificato di nascita del minore con le generalità dei genitori e la cittadinanza e le due foto formato tessera. In più gli adempimenti purtroppo economici, devo parlare anche di questo. Sa com'è, siamo a Salvadanaio, purtroppo li dobbiamo tirar fuori, dottoressa D'Arienzo. Non ho alternative, sì, infatti. Mi dispiace. Quali sono? Contrassegno telematico di 40,29 € per il passaporto e la ricevuta del versamento sul conto corrente del Ministero degli Affari Esteri di 42,50 €. Questo è un bollettino che consegna la polizia quando si va a fare allo sportello la documentazione, poi viene pagato in posta. Benissimo. Sì, posso dare il numero del conto corrente se può essere utile. Guardi, magari adesso lo facciamo nella seconda parte della trasmissione, sì, oppure diamo le indicazioni anche internet per poter accedere a tutte le informazioni. C'è un sito anche piuttosto dettagliato della Polizia di Stato dove possiamo reperire tutte queste informazioni. Allora, con noi questa mattina Matteo Prioschi del Sole 24 Ore, il primo dirigente della Polizia di Stato, la dottoressa Milena D'Arienzo. Un ascoltatore scrive al 349-238-6666, visto che abbiamo prima indicato quanto si deve spendere anche per il rilascio di questi documenti per i minori. L'ascoltatore scrive: un altro bollo a passaporto per figlio. Matteo Prioschi, non è mica un obbligo farlo il passaporto, però chiaramente se si viaggia molto... Sì, dipende dove si va, appunto, per contenere i costi bisogna valutare se è veramente necessario il passaporto, cioè se ci si muove ad esempio all'interno dell'Unione Europea può bastare o il certificato di nascita o appunto per avere qualche vincolo in meno più libertà di spostamento perché è riconosciuto in più paesi la carta d'identità che dal 2011 può essere fatta appunto anche per i minorenni, cioè fino al 2011 la carta d'identità poteva essere fatta solo una volta compiuti 15 anni, invece con una legge introdotta appunto quell'anno è stata estesa la possibilità di farla anche ai più piccoli, quindi se non si ha appunto la necessità di utilizzare il passaporto si può richiedere la carta d'identità che costa 5,42 €. Mm-hmm. Contro gli 80 € del passaporto, e poi il passaporto ogni anno che si deve utilizzare bisogna rinnovare il contrassegno e sono 40 € l'anno, anche esatto. Perché prima magari si poteva fare un po' di più il furbo, perché mi ricordo che non c'era la data di rilascio del bollo apposta direttamente. Dottoressa D'Arienzo, mi sbaglio? In genere al controllo, ecco, esatto, invece adesso insomma lo Stato si è fatto più furbo e quindi non si scappa, ogni 12 mesi se si viaggia molto bisogna mettere quello nuovo. È un contrassegno telematico che quando uno ritira lo va a comprare nelle tabaccherie, per esempio, impressa già la data in cui è stato emesso. Va ricordato una cosa, che per il rilascio è sempre necessario pagarlo il contrassegno telematico, però se negli anni successivi di validità del passaporto il minore lo utilizzasse per viaggiare in un paese Schengen, non avrebbe la necessità di rimettere il contrassegno telematico. Vale per i minori e vale anche per gli adulti. Senta, forse me l'ha detto prima, ma magari anche questo aspetto mi è sfuggito. Ogni quanto il passaporto rilasciato per il minorenne deve essere rinnovato? Perché il principio è naturalmente che il bimbo cresce, cambia la sua fisionomia, per cui chiaramente anche il documento di viaggio deve essere aggiornato proprio per quel motivo. Sì, esattamente, c'è una doppia validità del passaporto che è da 0 a 3 anni se ha il minore vale 3 anni, dai 3 anni ai 18 anni invece vale 5 anni. E comunque anche nell'ambito di questo arco temporale cambia molto, per cui il Ministero dell'Interno è stato piuttosto generoso nel non dare delle discipline, delle indicazioni più rigide. Allora, cominciamo a sentire i nostri ascoltatori, quindi cerchiamo di capire quali sono i dubbi più ricorrenti su questa novità della quale parliamo questa mattina. Cominciamo con Federico da Treviso, che saluto. Federico, buona giornata. Buongiorno a voi. Ci dica. È solo un dubbio, ma che mi pare aver capito, di aver già sciolto. Ho una figlia di 6 anni. Sì. E per i viaggi all'estero utilizziamo il documento certificato di nascita con fotografia. Mm-hmm. E quindi ha sempre funzionato. Il mese scorso in comune, andando a rinnovare la mia carta d'identità, ho trovato appunto l'indicazione che per i minorenni è obbligatorio dal 26 giugno la carta d'identità. Ora mi pare di capire che non è obbligatorio, è alternativa al certificato di nascita. Allora aspetti lì, dottoressa D'Arienzo, ce lo conferma? Sì, sì, rimane sempre un'alternativa. Il certificato ha validità di un anno soltanto, 12 mesi è il massimo della validità del certificato. Se il certificato è ancora in questi termini, può viaggiare nei paesi previsti dall'accordo europeo di Parigi. Mi raccomando di controllare. Esatto. Perché c'è una sezione sul sito della Polizia di Stato che prevede proprio i documenti validi per viaggiare. Ci sono alcuni paesi che non accettano questo documento. Quindi, per ribadire, il certificato di nascita è valido per viaggiare all'interno di quale area, dottoressa D'Arienzo? Di tutti i paesi che hanno sottoscritto con l'Italia l'accordo europeo di Parigi del 1957. La carta d'identità amplia questo arco geografico? Sì, assolutamente sì, e peraltro ha maggiori garanzie perché è un vero e proprio documento, mentre quello, come lei può immaginare, è un certificato vidimato dalla questura e quindi è comunque un foglio di carta. Alcuni paesi non lo ritengono valido perché non hanno aderito a questo accordo. Tra l'altro stavo pensando, certificato di nascita, perché stiamo parlando di minori, carta d'identità e passaporto, sono questi gli unici titoli di viaggio, dottoressa D'Arienzo? Non vale mai, per esempio, la patente? Adesso io sto tornando al mondo dei maggiorenni, chiaramente. Allora, per i maggiorenni ci sono una serie di documenti che sono validi solo sul territorio nazionale, ecco. Tra cui quello che lei citava, appunto, però no, glielo dico perché mi è capitato, no. Ovviamente che mi sono dimenticata il passaporto e non avevo la carta d'identità con me sul tavolo di casa, ovviamente lì non serviva, e una compagnia aerea, quella italiana, mi ha lasciato viaggiare con la patente, però me la ricorderò bene con la lezione a lungo. E purtroppo per il territorio nazionale sì, assolutamente possiamo viaggiare con la patente, anche con i tesserini degli ordini, per esempio, ecco. E con tutta un'altra serie di documentazioni appositamente previste, però parliamo di territorio nazionale, per esempio vale anche il libretto di pensione, il patentino di abilitazione, la tessera sanitaria. La tessera sanitaria no, le tessere di riconoscimento munite di fotografie e di timbro, però deve essere un'amministrazione dello Stato, la patente nautica è valida. Il porto d'armi è valido. E quindi ci sono vari, però è sul territorio nazionale. Quindi stavo solo dicendo a Matteo Prioschi che, da quello che capisco, possiamo andare anche a viaggiare tipo da Milano a Roma con il badge con cui entriamo in ufficio perché c'è la nostra fotografia sopra. Detto questo, sto scherzando, la lascio concludere, dottoressa D'Arienzo. Sì. Volevo fare una raccomandazione che secondo me è molto importante. Ci sono alcune compagnie aeree che richiedono il lasciapassare timbrato dalla questura per i minori anche per viaggiare sul territorio nazionale. Io devo rappresentare questo, è una prescrizione che non è prevista dalla normativa. Non è necessario il timbro della questura sul certificato di nascita e fotografia se viaggiamo sul territorio nazionale, ma è una cosa prevista nelle condizioni del contratto quando io compro il biglietto. Quindi ci sono delle compagnie aeree che possono richiederlo, ma non è una disposizione di legge. Esatto, cosa si verifica? Che il minore col genitore viene da noi a chiedere questo timbro, noi non lo mettiamo spesso e volentieri perché non è previsto dalla normativa metterlo e i ragazzi perdono il volo. Ho capito, ma quindi, se il genitore fosse molto insistente voi lo mettereste, oppure proprio per il fatto che nessuno... Siamo molto buoni e comprensivi perché ci rendiamo conto di qual è la situazione, ma la raccomandazione è di controllare bene le condizioni richieste dalla compagnia come documenti per viaggiare, soprattutto sul territorio nazionale. Benissimo. Andrea Gianni dalla provincia di Lecce. Gianni, buongiorno. Buongiorno, grazie dell'opportunità. Grazie a lei, Gianni. Io ho una figlia, una ragazza madre, il bambino vive con me in casa, che è la nostra luce. Detto questo, mio nipote ha già una tessera d'identità rilasciata dal comune perché dovendo muoversi in Italia con l'aereo ha una tessera d'identità personale. Se dovrebbe andare in Brasile in casa di amici una quindicina di giorni per vacanze, se ci sarebbe magari un'opposizione del padre, anche se sai, che adesso non si preoccupa di niente, però a volte quando vai gli chiedi qualcosa potrebbe anche dire no. Certo, allora ammettendo che quella mattina si alza male e vuole mettere un po' i bastoni fra le ruote di questo viaggio. Quanti anni ha il bambino, Gianni? 5 anni e mezzo, 6 anni a ottobre. Senta, io adesso con la tessera d'identità si può muovere oppure dovrebbe fare qualcos'altro? Per andare in Brasile temo che sia necessario il passaporto. Aspetti lì però, Gianni, che magari le faccio chiacchierare con la dottoressa D'Arienzo. sicuramente giusto. Per andare in Brasile purtroppo abbiamo bisogno comunque di un passaporto. Teniamo presente una cosa, bisogna verificare se la ragazza madre è l'unica esercente la potestà sul minore, perché in questo caso è agevolata per quanto riguarda l'assenso al rilascio del documento. Qualora invece non sia così, si può comunque sempre ricorrere al giudice tutelare, proprio per evitare che il padre impedisca al ragazzo, al bambino, in questo caso c'ha 5 anni e mezzo, di potersi fare il viaggio con la propria mamma e col nuovo compagno. Certo, della mamma. Se c'è, naturalmente, mi sembra che vada con un'amica, dottoressa D'Arienzo, abbiamo fatto una, una supposizione. Senta, ammettendo che naturalmente tutto fili liscio in questo nucleo familiare, che il papà non si opponga alla, al viaggio di, del suo bambino appunto con la sua ex compagna, spero peraltro che non debba partire a breve questo nucleo familiare, perché comunque un po' di tempo per il rilascio del passaporto è necessario. Quanto ci vuole, visto che ormai insomma siamo a metà giugno, ammettendo che partano ad agosto, ce la può fare? Allora, la legge prevede che il passaporto debba essere rilasciato entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza, 15 giorni che possono essere prorogati dalla questura, cioè dall'ufficio emittente, altri 15 giorni, qualora ci siano ulteriori accertamenti e verifiche da fare o i documenti. Quindi non completi. Perché le pratiche si accumulano, ma solo perché magari quell'individuo che ha chiesto il documento ha bisogno di accertamenti ulteriori e ci sono più informazioni da chiedere. Diciamo che una media ottimale per il rilascio del passaporto sono i 7 giorni lavorativi, tenendo conto che ci sono questure che lo rilasciano anche a vista, compresa la questura di Roma, per esempio, che è una grandissima questura, ci sono situazioni dove assolutamente nell'arco di, anche a vista o nell'arco di 1 o 2 giorni si ottiene il passaporto. Io e Matteo intanto stiamo ascoltando in religioso silenzio. Tu hai fatto tutto per le tue bambine, Matteo, sei a posto? Sì, tutto a posto. Tutto a posto. Allora, sentiamo Barry dalla provincia di Salerno. Barry, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutto. Il mio intervento giorno è di diversa, perché sono brasiliana, i miei figli sono nati in Italia, quindi non hanno neanche la cittadinanza brasiliana. Per viaggiare, per fare, il problema in Italia molte volte dei politici italiani è quando fanno le normative, le leggi, non vedono l'impatto. Una persona come me, che faccio un bianchino, quindi non mi vergogno, sono povero, per fare passaporti a 4 bambini, che oggi ho 4 bambini piccoli, per andare lì in Brasile è una spesa tremenda per me, perché devo pagare già il biglietto più 4 passaporti, che hanno una scadenza più breve. D'altronde crescono, Barry, dobbiamo mettere le foto in quel documento, come facciamo? A 3 anni ha una faccia come... Ma io dico questo, non solo contestano questo, l'unico contesto è nel caso del consigliere familiare, una persona che ha 4 figli deve avere una detrazione, deve pagare meno per fare tanti passaporti, perché non, prima si metteva nel mio passaporto e io viaggiavo con i miei figli. Ma adesso ogni volta che vado in Brasile devo rinnovare, poi come non posso fare viaggi costanti, certo, magari perché magari un anno scade uno e l'altro anno scade un altro, sono 100 euro a passaporto. Allora io dico questo, io penso che le leggi debbano essere fatte pure in base alla capacità di qualcuno, perché no, lento volente l'Italia è una nazione di oriundo, cioè persone che ormai stanno qui, io sono spontaneo italiana, quindi io dico ai nonni, hanno in Brasile, non sanno parlare portoghese dei figli bene, però certo, lei giustamente ce li voglio. Dico io, l'impatto delle leggi è consigliere familiare in Italia, se i politici devono mettere in testa prima di fare la legge, capire che ci sono persone che si possono permettere bene. E altre no. Abbiamo raccolto lo sfogo di Barry, la comprendiamo. 30 secondi, dottoressa D'Arienzo. Barry non può risparmiare in nessun modo su questi 4 passaporti per i suoi bambini, non c'è verso. No, purtroppo no, rispetto a prima, il passaporto prima costava 45 euro, adesso pur essendo molto più sicuro rispetto a prima contro le falsificazioni sono 42,50 euro, è poco per un passaggio in avanti, tutto questo posso dire. Va bene Barry, niente, continui a lavorare, forse magari il suo lavoro, lui dice sono un in bianchino, sono povero, ma magari adesso è uno dei pochi lavori che continua ad andare bene, credo, e quindi se può si goda questo viaggio con la sua famiglia, tenga duro. C'era Matteo Prioschi, con il quale stavamo facendo 2 chiacchiere su determinate località che sono particolarmente frequentate anche dalle famiglie italiane, che però per esempio nel certificato di nascita non lo accettano. Il caso dell'Egitto, Matteo? Sì, esatto, l'Egitto diciamo, è una meta abbastanza popolare dove il certificato di nascita non viene accettato, quindi la soluzione classica fino diciamo al 26 di giugno era quella di scrivere il figlio sul passaporto del genitore, invece d'ora in avanti non si può fare questo. Diciamo che l'Egitto poi ha una via di mezzo, nel senso che da qualche anno accetta la carta d'identità, quindi la soluzione dal 26 giugno in poi per spendere meno è fare la carta d'identità al minore. Niente, il suggerimento, dottoressa D'Arienzo, questo vale per tutti, poi sentiremo anche gli altri ascoltatori, è quello di documentarsi molto bene sulla destinazione, soprattutto prima di individuare, come dicevamo in apertura, gli itinerari, i posti più belli da visitare. Magari cerchiamo di capire se abbiamo soprattutto una bella famiglia al seguito, adesso quali sono gli adempimenti che dobbiamo rispettare prima di partire, per non trovarci costretti invece a stazionare in aeroporto più tempo del previsto, no? Perché poi magari qualche volta il viaggio può anche essere, non dico cancellato, ma magari ritardato e compromesso, no? Se non si va in regola. Controllare sul sito www.poliziadistato.it c'è proprio una sezione che riguarda i documenti per l'attraversamento alle frontiere, ma io consiglierei anche un'altra cosa, siccome quello è un sito che il documento poi si cristallizza nel tempo, invece c'è il sito del Ministero degli Affari Esteri che è www.viaggiaresicuri.it, lì è aggiornato proprio in tempo reale, perché cambiano anche le condizioni, no, politiche e sociali del paese, e possono cambiare proprio i documenti accettati o non accettati. Benissimo, andiamo ad Anna Maria d'Ancona. Anna Maria, buongiorno, poi ne ho un'altra che ci ha scritto al nostro indirizzo e se faccio in tempo leggo anche la sua. Anna Maria anconetana come me, buongiorno. Buongiorno, senta, io ho due nipotini che hanno la residenza in Cina e verranno in Italia i primi di luglio per ripartire alla fine di agosto. E il maschietto ha 8 anni, quindi hanno necessità di rinnovare il passaporto. Loro però sono in Cina in questo momento, sì, Anna Maria. Sì. Dottoressa D'Arienzo, allora qua abbiamo un percorso al contrario. Sono cittadini italiani, hanno sicuramente un passaporto italiano rilasciato dalla nostra ambasciata, dalla nostra rappresentanza diplomatica in Cina, ho capito bene? Sì. E quindi da lì poi si muniscono di tutti i documenti utili per venire in Italia e naturalmente ripartire, credo assolutamente, in con tranquillità. Lo stesso documento che sarà un passaporto. Cristina da Torino, buongiorno. Aspetti, Cristina, mi aspetta un attimo, perché Anna Maria la sentivo che ancora non aveva terminato la domanda. Anna Maria, avendo compiuto gli 8 anni, lei si chiedeva? Ci sente? Sì, io sento. Era lei che continuava la sua domanda? Sì, avendo compiuto gli 8 anni a giugno, e mi pare che è valido 5 anni dai 3 ai 18. E si trova in Italia, dovrà rifarlo qui o in Cina? Allora, Anna Maria, ma adesso questi bambini dove sono? In Cina o sono già qua? Sono già in Cina. Però lui compie gli 8 anni a giugno. E in Cina li compie. Ecco, sì. Allora, dottoressa D'Arienzo, credo che valgano le indicazioni date all'inizio. Esatto, se il bambino ha un suo passaporto indipendente il compimento degli 8 anni, dobbiamo vedere i 5 anni quando scadono, cioè se ha avuto un passaporto rilasciato esattamente ai 3 anni cadranno al compimento degli 8 anni molto probabilmente i 5 anni, però se per esempio il passaporto fosse stato rilasciato a 6 anni certo, cade al compimento degli 11. Bisognerebbe vedere la singola situazione, e comunque il passaporto può essere tranquillamente fatto anche qui, sebbene si tratti di residenti all'estero, perché c'è l'iscrizione alle liste dell'AIRE, degli italiani residenti all'estero, facciamo tutte quante le verifiche e rilasciamo il passaporto. Benissimo. Non c'è nessuna difficoltà. Andiamo adesso a Cristina, che avevo fatto iniziare e poi non ho fatta concludere. Cristina, Ari, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Senta, io ho questa domanda. Ho un minore di 13 anni che deve viaggiare da solo con la compagnia aerea per gli Stati Uniti quest'estate. Lui però ha un passaporto singolo rilasciato a giugno del 2005. In questura ci hanno detto che non c'era nessun problema, faremo solo un foglio di accompagno per il personale della compagnia aerea ed eventualmente aggiungeremo la sorella che prima della partenza compie i 18 anni, quindi è maggiorenne e viaggiano insieme. Io però ho letto su un articolo del Sole 24 Ore che questi passaporti antecedenti le nuove norme, singoli dei minori, adesso devono riportare anche i dati dei genitori. Allora aspetti lì, perché credo che comunque qualche cambiamento ci sia. Effettivamente bisogna aggiornare i passaporti dei minori, questo lo aveva scritto forse proprio il nostro Matteo Prioschi, emessi prima del 25 novembre 2009? Sì, la data mi risultava essere quella, per cui diciamo fa un po' da spartiacque. Quelli emessi dopo il 2009 già riportano i dati dei genitori, quelli anti 2009 no, e quindi dovrebbero essere aggiornati. Dottoressa D'Arienzo, ci conferma la nostra idea? Però questo vale se il ragazzo viaggia con i genitori, Ho capito che viaggi da solo, sì, e sì, quindi è necessario in questo caso la dichiarazione di accompagno con cui i due genitori affidano il ragazzo, non so, alla compagnia aerea, piuttosto che alla sorella maggiorenne, deve se è già maggiorenne o se diventa maggiorenne prima della partenza. Certo, ma sul passaporto, visto che è stato rilasciato prima del novembre 2009, deve portare qualche modifica? La modifica va fatta per se viaggia con i genitori, per evitare di avere questa dichiarazione di accompagno intestata a due genitori, ma nell'ipotesi in cui viaggi con un terzo che non è il genitore, quello che ci interessa è che ci sia la dichiarazione, certo, che i genitori affidano questo minore a questa persona o a questo soggetto, aerea, certo, o con chi viaggi. Questo fino al compimento del 14° anno di età vale la dichiarazione di accompagno. Sentiamo magari Cristina se ha bisogno di un altro chiarimento. Cristina, la mia domanda, cioè noi la dichiarazione di accompagno la facciamo, sì, la facciamo sempre perché viaggia tutti gli anni per motivi di studio, e quindi abbiamo facciamo tutti gli anni la dichiarazione di accompagno, certo, affidando al personale della compagnia aerea. Però dall'articolo del giornale sembrava che, essendo un passaporto antecedente, cioè datato 2005, sì, occorressero comunque contestualmente anche la modifica sul documento. Tra l'altro in questura ci hanno anche fatto notare che, essendo il 2005 ed essendo passati 6-7 anni, chiaramente il minore è molto cambiato di fattezze, quantunque il passaporto sia valevole fino al 2015. In questi casi cosa bisogna fare? Allora aspetti lì e concludiamo con la dottoressa D'Arienzo. I suoi colleghi della questura di Torino hanno effettivamente sollevato delle osservazioni corrette, no? Sì, questo è vero, però il passaporto mi pare ancora valido, la dichiarazione di accompagno, io non intendo la dichiarazione di affidamento alla compagnia, è quella fatta comunque presso la questura, per me è sufficiente senza bisogno assolutamente di inserire i genitori sul passaporto. Ma per essere tranquilla, magari Cristina se lo modificasse, se lo rinnovasse, secondo già lei? Se va in questura per la dichiarazione di accompagno deve portare il passaporto del minore, in quella fattispecie potrebbe chiedere assolutamente di inserire anche i genitori, se lo ritrova anche qualora il minore viaggiasse con i genitori. Vediamo se riusciamo a sentire Rechi da Reggio Emilia, ma proprio rapidissimo. Rechi, guardi, in realtà non ce la faccio perché devo andare alla pillola IMSS, e se lei ha la pazienza ci scriva salvadanaio@radio24 e magari ci facciamo aiutare dalla dottoressa D'Arienzo a rispondere anche a tutti gli ascoltatori a cui non siamo riusciti a dar risposta questa mattina. Eravate veramente in tanti. Noi siamo all'appuntamento con le pillole curate in collaborazione con IMSS, che ci aiutano a conoscere le novità dell'ultima riforma delle pensioni. Oggi torniamo a capire per chi valgono le vecchie finestre mobili. Pensioni, le novità della riforma in collaborazione con IMSS. La riforma prevede che coloro che hanno raggiunto i vecchi requisiti entro il 31 dicembre 2011 possono andare in pensione secondo le regole precedenti. Ma si applicano anche le cosiddette finestre mobili? I lavoratori che hanno maturato i vecchi requisiti entro il 31 dicembre scorso possono ottenere la pensione di vecchiaia o di anzianità secondo le regole precedenti. Il che però vuol dire anche che per ottenerla realmente, e dunque per incassare il primo assegno, dovranno attendere 12 mesi se dipendenti o 18 mesi se autonomi, dal momento della maturazione dei requisiti. Si applica ancora la cosiddetta finestra mobile, che indica il tempo di attesa tra la maturazione dei requisiti e l'effettivo pensionamento, che la riforma ha invece abolito per le nuove pensioni. Allora, Salvadanaio sta volgendo al termine, dottoressa D'Arienzo, però ancora 30 secondi di tempo, qualora volesse dare qualche altra raccomandazione ai nostri ascoltatori che quest'anno hanno l'opportunità di viaggiare e devono ancora mettere mano a tutta la nuova documentazione per i bambini al seguito. Controllare, come dicevo, bene che cosa richiede la compagnia aerea per viaggiare sia sul territorio nazionale che all'estero, controllare cosa richiede lo Stato verso il quale ci stiamo muovendo per andare in vacanza. E una raccomandazione capita spessissimo: quando fate la domanda per i vostri figli minori, sia il modulo che il versamento del conto corrente va intestato al minore, perché altrimenti poi non è valido, dovete fare un secondo versamento e dovete richiedere indietro quello indebitamente pagato. Benissimo. Quindi si allungano i tempi e spendiamo il doppio dei soldi. Grazie molte, grazie, andate sul sito della Polizia di Stato, ci sono tutte le informazioni che vi servono. Grazie a Milena D'Arienza, Matteo Prioschi, Salvadanaio torna domani. Buona giornata a tutti.